Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Ognuno e ognuna di voi può contribuire a farla vivere. Uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Mi ero impallato. L'altro modo, uno degli altri modi, è anche consultabile sul sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema, quello di Visionari. La scaletta della trasmissione di oggi la trovate sia sul sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, dove trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 4 settembre, i suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, ma anche il link per riascoltare la puntata precedente e l'archivio del 2014 e del 2013. Idem per quanto riguarda la pagina Facebook, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Un inizio con dei collegamenti che si occuperanno oggi di Venezia, di film in uscita in sala, di documentari. Con noi Alessandro Beretta, co-direttore del 19° Milano Film Festival, da oggi fino al 14 settembre. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille e buongiorno. Allora, di festival ci occupiamo di alcuni in particolare, perché ce ne sono talmente tanti di quelli cinematografici, con alcune caratteristiche. Poi, nello specifico, per questo festival di Milano mi interessava molto la parte documentario. Allora, intanto facciamo un po' una panoramica di quella di quella che è una kermesse giunta alla 19ª edizione, e poi di questa sezione documentaria. Ok, beh, appunto in 19 anni siamo nati da un'associazione culturale Esterni, che è ancora la produttrice del festival, e crediamo di essere cresciuti insieme al pubblico della città, quindi cerchiamo sempre di adattare l'evento alla voglia di cinema presente a Milano, e in questo significa anche capire che cosa proporre, e la nostra ricerca punta principalmente sul cinema emergente, per cui il concorso lungometraggi, che tra l'altro contiene anche dei documentari, è riservato alle opere prime e seconde, in anteprima italiana, come il concorso cortometraggi, che sono oltre una cinquantina di cortometraggi da ogni dove, è riservato a registi sotto i 40 anni. Sono delle caratteristiche che cerchiamo di portare avanti in un lavoro di ricerca che dura praticamente tutto l'anno. Oh, volevo chiederti anche, mi è venuto in mente adesso sentendoti parlare, Alessandro, rispetto al coordinamento che si è creato dei festival milanesi, voi ne fate parte, come la vedete? Allora, siamo tra i soci fondatori del Milano Film Network, sì, che è appunto la rete che ha unito i 7 festival maggiori della città, e se ne andranno ad aggiungere altri, e dobbiamo dire che è un'ottima iniziativa, sia perché permette di tagliare dei costi tecnici che condividiamo tra i diversi festival, quindi formiamo anche delle figure professionali che ci tornano utili nell'organizzazione, e inoltre c'è un ottimo lavoro di formazione, e anche un esperimento di distribuzione. Quest'anno a Milano Film Festival presenteremo Seven, che è il primo catalogo dei film distribuiti dal Milano Film Network. In pratica ogni festival ha scelto un paio di titoli da proporre alle sale in tutta Italia. Noi daremo una prima vetrina durante il festival. Vuol dire anche fare segnalo questo sito, il daily del Milano Film Network. Avremo un giornale fatto da studenti seguiti da giornalisti che seguirà in diretta il festival, quindi c'è anche un'occasione di formazione. Molto interessante anche questa ipotesi, insomma, distributiva. Passiamo ai documentari. Mi sembra un'offerta molto estesa e anche puntuale e anche curiosa. Sì, perché diciamo noi non abbiamo distinzioni di genere, a parte in una sezione che è appunto Colpe di Stato, che è dedicata a quelli che noi chiamiamo insomma i mali del sistema, che possono essere mali culturali, mali del potere, e lì è la sezione interamente dedicata al documentario e curata da Paola Piacenza da almeno 3 anni. E qui il gioco è anche a cercare dei film che non contano solo per tema, ma dove la forma cinematografica abbia una sua forza. Per cui segnalo di sicuro We Come as Friends di Hubert Sauper, regista austriaco, insomma un maestro del documentario anche controverso. E faremo anche un omaggio al cinema di Eugene Giarecchi, che è un insomma attivista e filmmaker americano molto deciso e potremmo dire incavolato, per essere, come dire, per usare un eufemismo. Mentre in concorso avremo un'opera prima che ci teniamo molto a segnalare, che è questo Comandante di Enrico Maestro. Lui è un giovane milanese che insomma ha costruito un film sulla ricerca di suo padre, che era giudice di sorveglianza a San Vittore negli anni di piombo, ed è un film su cui si sta già creando un buon interesse. Ma adesso ripensando al nome, Paola Piacenza è anche una regista di documentari, se non sbaglio. Sì, esatto. Quindi, perché l'abbiamo avuta ospita, esatto, mi ricordavo sia il nome che il cognome. Dicevi, scusami. Dicevo che coinvolgiamo anche persone che stanno anche a volte dall'altro lato della camera, cioè in questo senso. Senti, rispetto, visto che insomma date spazio ai registi emergenti, alle opere prime, lo stato del cinema italiano, per come la vedi tu? Urca, bella domanda. Nel senso che noi avremo 2 film italiani, uno è Comandante che ho nominato, l'altro è Le Sedi di Dio, e avremo anche un terzo film italiano fuori concorso, che è stato ieri a Venezia, Io sto con la sposa. Ecco, sono tutti e 3 film nati completamente lontani dal sistema classico di produzione italiana, quindi con la ricerca del finanziamento dal MIBAC per l'interesse culturale. Un film come Io sto con la sposa, che proietteremo nel sabato conclusivo del festival, è nato completamente dal fundraising, e sarà molto bello vedere arrivare questo film in città, proprio perché il progetto è nato a Milano. E mentre un film come Comandante è stato completamente autoprodotto dal regista, che insomma ci ha investito tempo ed entusiasmo. Quindi sul cinema italiano prodotto classicamente, cioè la vera domanda da farsi è: esiste un cinema italiano indipendente? E secondo me cominciano a esserci le carte e le occasioni per crearlo e anche per mostrarlo. Sì. In chiusura, Alessandro, ci dai riferimenti per la programmazione su internet? Sì, allora, trovate tutto su www.milanofilmfestival.it, dove consiglio di navigare tra o sezioni, e quindi troverete il programma diviso nelle sue linee editoriali, o nel day by day, cioè nel giorno per giorno. Altrimenti, ancora più comodo, volendo al giorno d'oggi, da qualsiasi luogo si può scaricare l'app del festival, disponibile per più o meno tutti i tipi di smartphone. Ecco. Un'ultima cosa, quante sono le opere che presenterete? Sono più di 200. Più di 200, insomma, una bella mole. Esatto, non l'abbiamo poi conteggiato, perché poi ci sono stati anche ingressi last minute. È stato un lavoro molto laboratoriale e bello. Bene. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, grazie mille. Ciao Alessandro. Prossima. Ciao. Ciao ciao. Alessandro Beretta, co-direttore della 19ª edizione del Milano Film Festival dal 4 al 14 settembre. Ecco noi il regista Raffaele Brunetti per parlarci dei bandi della 10ª edizione dell'Italian Doc Screenings a Palermo dal 9 al 12 ottobre, sicuramente ci torneremo sopra, e poi per parlare di un documentario che sarà programmato in TV nei prossimi giorni. Raffaele, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie dell'invito come al solito. Una piccola precisazione: il documentario di cui parleremo non è programmato in TV, ma è una proiezione che si terrà a Roma. Anzi, a questo punto forse ne parlo subito. Parliamone subito, sì. Allora, si tratta di un documentario di qualche anno fa che si chiama Che Guevara, il corpo e il mito, che analizza la relazione tra il corpo scomparso di Ernesto Che Guevara e l'esplosione del suo mito. Non è una biografia di Che Guevara, ma si inizia il giorno della sua morte e finisce ai giorni nostri. Ovviamente nel fare questo abbiamo dovuto analizzare, analizzando la sua morte, abbiamo analizzato alcuni aspetti della sua vita e principalmente perché ci sono voluti 30 anni per ritrovare questo corpo, per cui il film analizza i rapporti tra Cuba e Unione Sovietica e contiene i materiali esclusivi, forse quello più importante di tutti, è l'unica intervista mai realizzata con l'esecutore materiale del CE, un'intervista utilizzata in un documentario di un giornalista della RAI che fece un'inchiesta bellissima di 3 ore degli anni 70. Questo film venne censurato, non è mai andato in onda e venne perso. Abbiamo rintracciato l'autore, abbiamo fatto le ricerche, abbiamo trovato dei materiali molto interessanti. Queste altre cose, tra cui un'intervista al fratello di Ernesto Che Guevara che sta per partire per la Bolivia il giorno che gli hanno ammazzato il fratello, nella vana speranza di riconoscerne il corpo, invece va lì e incontra i militari argentini che hanno ammazzato il fratello, hanno appena fatto scomparire il corpo, e anche un'intervista fatta a Parigi a Benigno, che è l'ultimo compagno di battaglia del CE, che è stato vicino a lui fino all'ultimissimo momento e oggi esode a Parigi. E il film sarà proiettato domenica 7 settembre alle ore 20 presso l'Arena del Chiostro di San Pietro in Vincoli, alla Facoltà di Ingegneria, a via Eudossiana 18, zona Colosseo, Roma. Raffaele, anche una sua distribuzione ha avuto nel corso del tempo, e anche per chiederti adesso dove si può trovare questo documentario. In verità non si può trovare per una serie di motivi. Allora, il film ha avuto una distribuzione, è stato coprodotto insieme a Arte, una televisione pubblica franco-tedesca, SVT, la televisione svedese, la televisione finlandese, la televisione irlandese, tante televisioni. Forse tra i film che abbiamo fatto è quello che ha avuto più coproduzioni e diffusione internazionale. E non è stato mai pubblicato in DVD perché ci sono una serie di archivi, tra l'altro non quelli più interessanti che erano quelli che elencavo prima, ma una serie di altri piccoli estratti di archivio che abbiamo trovato sulla CNN, sulla Associated Press, che richiedevano delle cifre proibitive per estendere i diritti anche al DVD. Quindi il DVD non ha mai avuto una diffusione commerciale, noi facciamo vedere il film a chi ce lo chiede e quando ci sono proiezioni approfittiamo per promuoverle, perché sono purtroppo in Italia occasioni abbastanza uniche per vedere i documentari. Sì. Raffaele, passiamo all'Italian Doc Screenings. Sì. Dici qualcosa. Allora, i Italian Doc Screenings, che sono alla 10ª edizione, sono il più importante evento per quanto riguarda la parte di mercato del documentario. Insomma, lo sappiamo che il documentario purtroppo in Italia non vive un periodo florido, dico non vive un periodo, insomma sono da 50 anni dovrei dire, non vive un periodo, nonostante l'Italia sia stata patria di documentari e documentaristi. Basti ricordare che Gregoretti, Rossellini, Pasolini hanno fatto documentari coproducendoli con la RAI, che sono andati in onda sulla RAI, eccetera. Poi abbiamo avuto un buco di 50 anni e nonostante abbiamo una interessantissima produzione, autori importanti e società di produzione che riescono a coprodurre a livello internazionale, il mercato interno è molto povero. Questo è stato una delle spinte propulsive per gli Italian Doc Screenings, che si focalizzano molto sugli ospiti internazionali. che grazie ad un accordo con l'ICE, l'Istituto per il Commercio Internazionale, DocKit, l'Associazione Documentaristi Italiani, riesce ad invitare 50-60 ospiti internazionali. Quindi invitiamo le televisioni internazionali più attive nelle coproduzioni dei documentari, ma non solo, anche produttori, distributori, fondi, distributori cinema. Analizziamo il documentario a 360 gradi, dal documentario per la sala, al documentario per la televisione, al documentario seriale, fino al docu-reality e tutti gli aspetti del documentario. L'edizione di quest'anno sarà a Palermo dal 9 al 12 ottobre. I Tandox quindi sono un po' itineranti, nel senso che oltre al contributo dell'Istituto del Commercio Internazionale noi cerchiamo dei contributi dalle regioni, e questa è la seconda edizione che facciamo a Palermo. Ci sono state le edizioni a Venezia, a Firenze, insieme al Festival dei Popoli, a Todi, a Trento, e adesso siamo a Palermo, per cui è un'occasione interessantissima per chi vuole sentire parlare di documentario, per chi vuole proporre progetti, cercare coproduzioni, anche vedere documentari. Quest'anno avremo due proiezioni di Mike Lerner, che è un regista produttore inglese molto bravo, tra cui uno dei due film è Pussy Riot e l'altro è The Square, che è stato candidato all'Oscar. Ci saranno nelle prime giornate due proiezioni dei suoi film e poi nella prima giornata di Tandox Screening una sua masterclass di un'ora e mezza molto interessante. Quindi ci sono panel, masterclass, si discute di documentario, si presentano progetti di documentario, c'è una library dove poter iscrivere i propri documentari e farli vedere ai buyers ospiti, che poi li possono anche vedere quando tornano a casa attraverso una password, vengono caricati sulla library di DocKit. Questo insomma in breve e in sintesi, sì. Italian DocKit. Ecco, visto che hai fatto riferimento ad internet, a questo punto ti chiedo quali sono gli estremi per partecipare e dacci anche delle indicazioni. Sì, allora c'è sia sul web italiandocscreenings.it, credo, non mi ricordo bene, sia su Facebook ci sono le pagine, sia attraverso le pagine di DocKit, sul web e su Facebook attraverso DocKit o direttamente cercando Italian Doc Screenings ci sono tutti gli elementi, oppure c'è anche l'ufficio di DocKit che ha la sede a Bologna, al quale si può rivolgere per le informazioni. C'è la selezione per i progetti, perché sono una serie di progetti che vengono preselezionati e chiusa da qualche giorno. Invece la possibilità di iscriversi all'evento e di partecipare e di assistere anche alla presentazione pubblica dei progetti, perché quest'anno c'è una novità. Per la prima volta intanto non c'è solo una sessione di pitching si intende presentazione dei progetti dai produttori, diciamo, ai compratori internazionali, ma c'è una sessione dedicata ai registi e agli autori, che è un matchmaking che fino all'anno scorso si faceva a Documentary in Europe a Bardonecchia, invece quest'anno abbiamo unito le forze e la facciamo ai Italian Doc Screenings. Quindi questa sarà una sessione pubblica, ci sarà la possibilità di assistere ai registi e autori che presentano i loro progetti a una platea composta da produttori italiani, ma anche funzionari del programma media, film commission, distributori, commissioning editor. Ci sarà per esempio Fabio Mancini, che commissiona per Doc3 questo slot di Rai3, e anche qualche ospite internazionale che parla italiano. Invece dal giorno successivo ci sarà la presentazione dei progetti in lingua inglese fatto dai produttori italiani ai compratori internazionali, e questi sia in modalità one to one, cioè uno a uno, per cui sono incontri riservati, ma quest'anno per la prima volta alcuni progetti verranno presentati in pubblico, per cui chi vuole può andare a vedere come si presenta un progetto, quali sono le reazioni degli acquirenti, e comunque tutto l'evento è fatto in modo, per noi una parola incontro, networking è una parola chiave, è fatto in modo affinché tutti i partecipanti possano interagire con gli ospiti, parlare, non solo ascoltarli durante i panel, ma proprio incontrarli di persona, proporre progetti, scambiare idee. E insomma, gli screening sono proprio all'insegna del networking, sì. Scusate la parola internazionale, ma rende meglio il senso. Raffaele, allora in chiusura ricordiamo l'appuntamento invece della proiezione del documentario di domenica, anche dei riferimenti internet legati proprio a quel documentario, se ci sono. Allora, quel documentario non ha riferimenti internet specifici, c'è la pagina della BNB Film, che è www.bpfilm.tv, come Bologna, bolognafilm.tv. Anche la BNB Film è su Facebook, ha una pagina BNB Film, e il documentario si chiama Che Guevara, il corpo e il mito, che è di Raffaele Brunetti e Stefano Nissio, dura un'ora, domenica 7 settembre alle ore 20 presso l'Arena del Chiostro di San Pietro in Pincoli, che è un'arena all'aperto, che si trova alla Facoltà di Ingegneria, via Eudossiana 18, zona Colosseo Cavour, Roma. Perfetto. È tutto. Raffaele, io ti abbraccio, alla prossima. Grazie mille Federico e complimenti per il lavoro prezioso che fai. Grazie, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Raffaele Brunetti, regista Raffaele Brunetti, per parlarci dei bandi della 10ª edizione di Italian Doc Screenings a Palermo dal 9 al 12 ottobre, anche del suo documentario sul Che Guevara. Vi ricordo che questa è Visionari su Radio Onda Rossa e che oltre al fatto che potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, c'è anche l'opportunità di seguirci in streaming dal sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sulla home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Per comunicare con noi vi ricordo anche l'indirizzo di posta elettronica, che è visionari@ondarossa.info. Tra l'altro vi ricordo anche gli altri ospiti che dovremmo avere per la puntata di oggi, sempre da Venezia, il regista Claudio Giovannesi, che è co-regista del film collettivo 9x10-90 e anche del documentario Wolf, che però ha già qualche mese. E poi ci sarà Enrica Capra, regista del documentario The Toxic Burden, Francesca Frigo, regista del documentario San Per, Venisse il fulmine, Alfredo Covelli, regista del documentario Ring People, e Antonio Spanò, co-regista del documentario Animal Park. Eccoci in collegamento con Alfredo Covelli, regista del documentario Ring People. Alfredo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao Federico. Tutto bene? Grazie, ciao, sono qui, sì. Allora, Ring People, raccontaci un po' di questo lavoro. È un documentario che ho girato a Los Angeles. Mi trovo a Los Angeles per presentare un mio cortometraggio e avevo il jet lag, quindi mi svegliavo alle 5:30 di mattina tutti i giorni. E le uniche persone sveglie erano gli homeless, i senza tetto di Los Angeles. Erano le uniche persone che incontravo la mattina quando scendevo a cercare un caffè, e le uniche persone che mi parlavano, fondamentalmente, perché a Los Angeles si fanno tutti i fatti loro. E allora mi sono piaciute e mi sono trasferito con loro sul marciapiede per un po' di tempo. Ho vissuto con loro e ho girato questo documentario. Allora, quali sono le cose che sei andato a scovare e cosa ti ha colpito? E insomma, quali sono state le impressioni? Le mie impressioni sono state... Io lo rivedo in continuazione perché è stata un'esperienza bellissima. Ho incontrato degli angeli, davvero. Erano personaggi sconfitti che avevano una valenza sociale molto particolare, perché negli Stati Uniti, nella società totalmente pietista, nel capitalismo estremo, la più grande paura della morte, più della malattia, più di qualsiasi cosa, è il fallimento. E queste persone incarnano proprio quello, incarnano la più grande paura della società capitalista. Insomma, non ce l'hanno fatta. E rappresentano, insomma, la paura più grande. e stando con loro ti rendi conto che invece hanno un'altra valenza, sono una grande risorsa spirituale e culturale. Senti, negli Stati Uniti l'assistenza non è molto attiva, non è una realtà molto presente, per cui i cittadini vengono poi abbandonati a se stessi, e spesso le città sono piene di gente senza una casa, senza un riparo, senza un lavoro. Esattamente. È molto molto facile finire per la strada. Da noi sì, è facile, c'è la crisi e puoi finire male, ma non è mai così veloce. E invece lì è così, tu perdi il lavoro, non hai assistenza, ti ammali forse e perdi tutto. E perdi tutto e sei fuori dal gioco, fuori dalla grande competizione e finisci sul marciapiede. Sì. Molti anche per scelta, molti erano molti lì anche per scelta. Sì. Molti, in molti di queste persone continua a vivere quel grande spirito della big generation, del vivere liberi, no? Quello che io ho letto con i poeti della big generation, Allen Ginsberg, Jack Kerouac e tanti altri. Ecco, in loro ancora lo puoi trovare. Ecco, proprio a questo proposito, Alfredo, mi viene anche la curiosità, tra chi c'è costretto a quel tipo di vita e chi l'ha scelta, si riesce poi una convivenza, una forma di convivenza in queste comunità che si creano? Esattamente, c'è una grande convivenza, sono come delle le comunità dei senza tetto americani, come delle grandi società parallele ricreate, ognuno ha il suo ruolo. In questo mio documentario queste cose vengono fuori. C'è il guardiano, colui che si deve stare attento che non ci siano i problemi. C'è il profeta, no? Quello che si sente illuminato dal Signore, sente che ha una missione. Ci sono delle donne che spesso sono madri un po' di tutti. Ci sono gli intellettuali e sono i rapper che vivono per strada. Attraverso i loro rap loro lanciano continuamente dei messaggi. Insomma, è così. Ci sono i commercianti, ci sono delle persone che vanno in giro, raccolgono delle cose e poi le vendono agli homeless, si fanno pagare con delle sigarette. Ecco, proprio a questo proposito, come si sostentano? Si sostentano con l'elemosina e poi con l'aiuto reciproco. Alcuni, io ero a Venice Beach con loro, alcuni hanno dei collegamenti, conoscono i pusher, quindi quando il turista arriva a Venice Beach ha bisogno di un po' di fumo, magari loro si propongono di trovarglielo e trovano del buon fumo e magari si fanno dare una piccola stecca dal turista o qualche soldino. E poi c'è da dire che questa roba che loro guadagnano poi la spartiscono con i loro fratelli, la spartiscono tra loro. Senti, avendo visto da vicino il fenomeno, sai più o meno quante persone coinvolge? Guarda, non lo so. Non so dirti. I dati non so dirti, ma è la cosa che sono un po' dappertutto negli Stati Uniti. La prima volta che io andai ero molto giovane, già vedevo questa roba qui, già vedevo questi fantasmi che si aggiravano nella città, erano completamente invisibili, non avevano invisibili davvero. Ma da noi ci sono i senza tetto, ma comunque sono integrati in una comunità, no? Cioè il senza tetto che vive nei nostri quartieri comunque si conosce, le persone, le vecchiette parlano di lui, oddio che storia avrà avuto, ho capito che ha avuto una storia difficile, si chiama Mario, ha 54 anni. I poveri da noi, forse anche per la nostra matrice cattolica, sono in qualche modo, li notiamo, e lì invece no. lì invece no, sono dei fantasmi che passano, hanno una vita parallela che noi ignoriamo. Senti, questo titolo, Ring People? Ring People viene da una scena del documentario dove uno di questi senza tetto, Arthur, che il suo ruolo è l'homeless capitalista, vive da homeless ma non si rassegna, sogna di diventare ricco un giorno perché sta scrivendo un libro con le sue memorie, si ferma davanti a Venice Beach, ci sono tutte queste palestre sulla spiaggia e c'è un gioco molto bello che è un percorso con gli anelli in aria e lui si ferma a guardare questi acrobati che passano di anello in anello e li chiama i Ring People ed è un po' così, e loro sono un po' così, sono un po' degli equilibristi. E Ivano De Matteo, che avete intervistato poco fa, no, lo devo intervistare perché era impegnato, ci siamo sentiti adesso mentre parlavamo, lo richiamo a breve, insomma, subito lui dopo di te. Lo stesso titolo. E senti, per saperne di più su questo documentario, anche per eventuali calendari di proiezione, in rete c'è qualcosa, Alfredo? No, in rete non c'è niente, non metto niente in rete, i miei lavori sono ogni tanto proiettati da qualche parte in Italia, ma in Italia non mi seleziona mai nessuno, mi selezionano sempre negli Stati Uniti e vinco anche dei premi solo negli Stati Uniti. Questo era bello inizialmente perché no, ho vinto tutti questi premi a San Francisco, Nashville, Rhode Island, ora però un po' mi ero del culo, perché no, veramente è soltanto negli Stati Uniti che vanno in giro i miei lavori e se leggi le mie partecipazioni e i miei premi sembro un regista del Wisconsin, invece sono del quartiere Trieste. A questo punto basta cercare allora tuoi riferimenti in rete per saperne più sulla tua attività. Esatto. E poi li proietto ogni tanto, io sono anche produttore, se volete vedere qualcosa che ho prodotto, il documentario Fuori Strada di Elisa Moruso. Ah, come no, ci abbiamo avuto ospite Elisa, l'abbiamo avuta, sì. E lo proietteranno domani al Gay Village con la presentazione di Vladimir Luxuria. Ah, benissimo. Deve essere una serata molto bella, chi vuole andare a vedere questo bel documentario che ho prodotto con la mia società che si chiama Me Produco Da Solo SRL può andare a vederlo. Benissimo, a che ora? Mi sembra alle 9. Alle 9. Non lo so, googolate un attimo, capite. Alfredo, è stato un piacere, spero a presto per delle Mio novità. Fede. sì, ma chiamami, sentiamoci. Va dai. Benissimo, va benissimo. Dai, okay. Allora, un abbraccio e a presto. A te. Ciao, ciao Alfredo. Ciao a tutti. Alfredo Covelli, regista del documentario Ring People. Ecco, ce l'abbiamo fatta, in collegamento Ivano De Matteo da Venezia, regista del film I nostri ragazzi, in uscita in sala domani 5 settembre. Ivano, ben ritrovato. Ciao a tutti. Come stai? Benissimo, mi fa sempre piacere entrare in diretta. Infatti lo faccio mentre mi avvio, sto cambiando, c'è un casino qua che stanno presentando un altro film, lo faccio mentre tra un cambio e l'altro. Benissimo. Ciao a tutti. Senti, intanto ti chiedo com'è stato accolto il film. Guarda, io sono arrivato il giorno e c'è stata, mi hanno detto che in sala io non c'ero, che stavo ancora fuori, c'è stato 270 persone in sala soltanto per, diciamo, la proiezione della stampa, ma poi diciamo quella ufficiale, quella col pubblico, che è adesso tra alle 5. E quindi sono molto curioso, c'è molta, come dire, molta curiosità, anche perché il film poi proprio ti pone un grosso dubbio, proprio poi possiamo parlare anche del tema del film. E certo, intanto questa è la grossa domanda sulla quale poi ho costruito tutto il film. Allora, intanto diciamo per chi ci ascolta l'idea di partenza e poi di cosa si parla, qual è il film? Allora, l'idea di partenza parte, diciamo, da un libro che è un romanzo importante, che è La cena di Herman Koch, E da là abbiamo, insieme alla mia compagna Valentina Ferla, abbiamo sviluppato, diciamo, la nostra sceneggiatura, no? Il nostro, abbiamo adattata un po', italianizzata, ma soprattutto parte proprio da questa domanda specifica: che cosa fai, cosa faresti se tuo figlio adolescente un giorno, così, per una semplice bravata, questa bravata si trasformasse in un crimine? Cosa che, diciamo, da ex adolescente, diciamo anche ex adolescente inquieto, quante volte abbiamo rischiato anche per una semplice, come dire, litigata stupida da strada, che poteva trasformarsi un attimo in un dramma e trasformare le vite sia dei ragazzi sia dei genitori, lì cambia tutto. Cioè, diciamo, è una doccia fredda che spero non accada mai, ma quando arriva va a scardinare tutto, va a smontare tutto, va a smontare di nuovo la famiglia, questo nucleo familiare che avevo già raccontato negli equilibristi. Sì, sì. Cioè, Ivano, dalla partenza, da come inizia il film, dà un po' un'idea di questa violenza che può comparire fulmineamente in una metropoli. Roma, spesso ci sono questi episodi di violenza, guarda, improvvisa, immotivata. Guarda, questa scena, diciamo, questo prologo iniziale, che chiaramente non c'è nel libro, ma io ho usato proprio per dare lo start del film, è qualcosa che a me è accaduto quando ero abbastanza più giovane, cioè avevo 18 anni, e quindi per una lite stupida di traffico vicino al raccordo anulare, mentre camminavamo ci insultavamo a vicenda io e l'altro, io con una mia amica, lui con sua moglie. A un certo punto lui dal cassetto tirò fuori una beretta, una 92, me la puntò attraverso il finestrino. E da lì poi, diciamo, ho cominciato a pensare che cosa poteva succedere se fossi sceso, se fosse andato oltre, ecco, da quello, diciamo, da quello start iniziale, cosa che poi accade tutti i giorni. Io credo che ci sia una violenza neanche troppo sotterranea, ma ormai è palese, anche a volte enfatizzata, volutamente filmata, rimessa in rete quasi come un trofeo. Sì. Ecco, io da quella, diciamo, da questo dramma iniziale poi costruisco la storia dei nostri due fratelli, che sono all'inizio spettatori di questo dramma, no? Molto, sì, forte iniziale, sì. E poi diventano a metà del film i protagonisti, e allora quindi a quel punto tocca a loro, quindi vengono spogliati da tutto quello che dicevo prima e rimangono nudi con i loro pensieri, con i loro dubbi, con questo dubbio amletico: che cosa fai veramente, cosa fai in quel momento, praticamente, che cosa fai, denunci tuo figlio o lo copri? Sì, ecco, proprio a proposito dei due fratelli, un evento così drammatico che sconvolge le vite di tutti mette a nudo e anche stravolge i ruoli. Per esempio, chi sembra in un modo poi si dimostrerà altro rispetto a quello che sembrava. Ma questa è la cosa poi che mi divertiva anche del romanzo, che mi divertiva, che mi interessava proprio questo switch, questa virata secca, a dimostrazione che come dire, che spesso quello che noi mostriamo fuori è soltanto la parte, come dire, esteriore, no? In realtà il sentimento cova sotto e viene fuori, oppure la nostra parte vera, più reale, viene fuori soltanto nel momento in cui accade la cosa, perché finché siamo fuori c'è un facile giudizio, ecco. Sì. Diciamo, giudicare, analizzare da bar, a casa, nel salotto, in una conferenza stampa, è molto semplice, è una domanda molto semplice, cioè uno la pone, cioè che cosa fai, chi può dire io lo denuncio, io lo copro, e trova anche le sue motivazioni. Il punto è quando arriva, cioè quando tu lo vieni a scoprire, no? E quindi c'è quella, diciamo, quella doccia agitata, quel ghiaccio che ti annulla. Non c'è, sì, più il sentimento, non c'è più il raziocinio, c'è, cioè, un attimo un blocco, perché devi prendere subito una decisione, subito, immediata. E comunque poi cominciano a nascere anche i dubbi. Sì, chi, sì, cosa ero io? Che cosa ero io? Chi erano i miei figli? Chi ho cresciuto? Siamo sicuri davvero di conoscerli, ma siamo sicuri davvero di conoscere noi? E quindi nascono i dubbi su chi avevamo avuto fino a quel momento in casa. Come risolvere il problema attuale della cosa, quindi il denunciare o coprire, e poi il futuro. Sì. È giusto farlo, è giusto non farlo. Sì, sì, sì. Rovinare, cioè, ormai si rovina la vita di tutti, come dice a un certo punto Luigi Lo Castro, la moglie, sì, a Giovanna, nel suo giorno. Ecco, per quello che è una sorta, è molto vicino a un episodio di bullismo e di violenza di gruppo, no? C'è molte somiglianze, e questo mette in moto una serie di domande ed anche di realtà, nel senso, c'è sicuramente il mancato dialogo tra genitori e figli. Esatto, è un film anche sull'incomunicabilità, sì, esattamente. Sì. E poi rispetto ai giovani spesso minimizzano quello che hanno fatto, stravolgono le responsabilità, la verità viene quasi capovolta, e poi c'è una sensazione di onnipotenza, che nulla gli può succedere. Beh, guarda, questa è quell'onnipotenza che si ha, no? diciamo a grandi linee si ha in questa fase adolescenziale che va dai 15 pratica fino ai 20, dove tutto ti è permesso, pensi di essere il padrone del mondo, come dici giustamente tu, quell'onnipotenza, e nel momento poi del dramma c'è la paura, torna il bambino, e quindi che fa? Scarica, annulla, rifiuta, e quindi le responsabilità poi vanno addosso agli ex adolescenti, ai loro genitori. Mm-hmm. E lì diventa problematico, quindi c'è appunto questa difesa della specie, no? Come si pone invece nella mezzogiorno rispetto al figlio. Sarebbe, come hai detto prima tu, è anche soprattutto un film non sull'educazione, ma proprio sulla incomunicabilità, cioè ecco, sul parlare. Sì, parlare. E un'altra cosa che mi facevi venire in mente adesso te parlando è il senso di clan che si crea a un certo punto, no? Per cui i figli spesso si vedono anche genitori succubi dei figli, e i figli hanno ragione in ogni caso, e questo si vede per esempio a scuola, dove gli insegnanti vengono colpevolizzati spesso anche dai genitori rispetto a quello che è il comportamento dei propri figli. Guarda, è come se si parte dal presupposto che, essendo anche genitore, che tu hai gli angeli, diciamo che il diavolo è sempre il figlio del latte, è sempre quello che si sta accanto, sì, e quindi sì, c'è questa difesa a oltranza, senza se, senza ma, si difende, punto. E infatti c'è anche questa scena di Giovanna quando va a parlare con il professore, comunque, te lo dico anche perché, cioè, ricordando anche l'atteggiamento di mia madre nei miei confronti quando nel mio periodo abbastanza inquieto, lei metteva un muro davanti. Mm-hmm, sì. Era non lo scardinavi, nel senso, non è possibile, mio figlio non è così. Sì, questo sì, era sì. Senti, negare l'evidenza. È negare l'evidenza a quel punto. Senti Ivano, da domani nelle sale in quante copie esce il film? Il film esce in 150 copie, un'uscita importante. A Roma sarà presente al Cinema Eden, al Nuovo Sacher, al Fiamma, al Roxy, al Latimi, insomma sono tante le sale di Roma, al Tibur, a San Lorenzo, in tante sale, tutte sale giuste per questo tipo di film, insomma sono contento, esce dappertutto. Da domani sarò a Roma all'Eden a fare un saluto al pubblico, poi da sabato faccio una piccola tournée a Milano, a Torino, a Bologna e a Firenze. Un altro elemento, Ivano, che Roma, forse più che negli altri tuoi film, è protagonista, si vede molto in molti scorci. Ma qui in questo caso, mentre negli Equilibristi ho cercato di raccontare una Roma diversa, quasi camuffata, quasi grigia, buia, che non riconoscevo neanche io, in questo caso è molto, molto presente, perché ho raccontato invece la Roma borghese, la Roma bene, quindi c'è Farioli, Prati, sono molto forti, ma non per questo, è una problematica di classe sociale, perché che è la famosa doccia fredda che può capitare a chiunque. Se avessi fatto il dramma in una famiglia di periferia, come si poteva pensare, nasce in periferia, quindi quel tipo di società lo porta a commettere una cosa del genere. Io l'ho estremizzato e alzato di livello. Sì, e quindi sì, ho raccontato questa Roma che comunque, anche se vengo dalle ex periferie o borgate, che adesso è diventato il centro storico, non poteva essere Trastevere, però erano quartieri che conoscevo, dove andavo a fare delle passeggiate quando ero ancora giovane. Andavo in giro a conoscere. A proposito di Trastevere, Ivano, un'ultima considerazione: in meno di un mese abbiamo perso due luoghi in cui tu hai anche Valle d'America, infatti Valle d'America. Ieri, mi hanno chiamato subito, facciamo venire, io ho detto guarda, sto qua, infatti mi ha mandato un messaggio Elio Germano, mi ha chiamato un altro amico, abbiamo perso sì due roccaforti, dove si sta tentando di fare qualcosa di nuovo, ma non è andare. Che dici? Però non la vedo proprio, perché che anche i ragazzi d'America qualcosa hanno ottenuto, come quelli del Valle. Mm-hmm. Probabilmente non tutto quello che volevano, però qualcosa hanno ottenuto. Mm-hmm. Comunque, per quanto riguarda l'America, il blocco fino adesso della costruzione mi sembra un ottimo risultato. Sì. Della speculazione. Sì. In un quartiere poi così al centro della speculazione. Esatto. Ivano, io t'abbraccio, in bocca al lupo, poi ci fai sapere di questa proiezione aperta al pubblico. Come no, da domani come no, nei cinema, a risentirci presto. Ciao a tutta Radio Onda Rossa, ciao a Federico. Ciao Ivano. Ivano De Matteo, regista del film I Nostri Ragazzi, in uscita in sala domani, venerdì 5 settembre. Allora, restiamo a Venezia. Dopo Ivano De Matteo, Claudio Giovannesi, co-regista del film collettivo 9x10-90, che è stato presentato il 2 e il 3 a Venezia, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, e anche per parlare con lui del suo lavoro precedente, il documentario Wolf. Claudio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ciao. Allora, intanto come è andata questa due giorni, questi, il 2 e il 3, le proiezioni di 9x10? Ma guarda, è stato bello perché innanzitutto ci siamo ritrovati tutti e nove, quello è stato divertente, con Alina Marazzi, Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, insomma un bel gruppo, Giovanni Piperno, Paola Landi, e quindi ci siamo trovati tutti e nove, e molti di noi, io anche, abbiamo visto il film per la prima volta ieri. Io per esempio ho visto solo il mio episodio e quello di Alice, che era la mia dirimpettaia nella sala di montaggio, quindi ieri è stata una prima in cui abbiamo visto il film anche noi per la prima volta. Bene, allora partiamo dal progetto. Cos'è 9x10-90? 9x10-90, con questo titolo un po' cabalistico, festeggia in qualche modo i 90 anni dell'Istituto Luce, dell'Archivio Luce. E quindi che hanno fatto? Hanno inventato questo film, che non è un film collettivo, bensì un film a episodi. Hanno chiamato 9 registi, quelli che ho nominato prima, e ci hanno chiesto di realizzare un cortometraggio, diciamo, un episodio di 10 minuti a tema libero. L'unico vincolo, oltre alla durata dei 10 minuti, era il fatto che non potevamo girare nessuna inquadratura, quindi che dovevamo solo attenerci come volevamo noi, però al materiale di repertorio Luce, quindi 9 episodi realizzati con il repertorio, e sono venuti ovviamente 9 lavori molto diversi tra loro. Sì. Ognuno. Tra l'altro ho reso omaggio a questo lavoro collettivo con la copertina della trasmissione di oggi, in cui c'è una foto in bianco e nero con 5 bambini piccoli in cima a una collinetta vicino a una ragazza che tiene in braccio un altro bambino. Volevo chiederti del tuo episodio e poi qual è stato anche l'insieme degli altri lavori. Certo, no, il mio episodio è stato, io avevo, quando mi hanno commissionato, insomma, a me e agli altri questo lavoro, io avevo in casa un diario che era un regalo di Natale di mio zio. 3 anni fa per Natale mio zio mi ha regalato un diario di un'amica della sua prozia, un diario di una donna vissuta tra gli anni 30 e il 40, e questo diario è stato scritto dal 39 al 42, quindi in piena Seconda Guerra Mondiale. Questa donna si sfoga nel diario perché non riesce a fare l'amore col marito. È una donna molto cattolica, e quindi è uno sfogo privato, doloroso, che appunto in cui il tema è la morale, il cattolicesimo, la sessualità. E quindi Anita Caprioli ha letto delle parti di questo diario e ha prestato la voce. E poi con il materiale d'archivio ho cercato di ritrovare il volto di quella donna, il corpo, perché quindi è diventato un lavoro sulla femminilità di quegli anni, sulla grazia, sul rapporto poi che c'era tra sessualità e cattolicesimo. Infatti il mio episodio si chiama Il mio dovere di sposa, che è una frase che scrive questa donna nel diario. Senti, e gli altri lavori quale tematica hanno affrontato? Gli altri lavori tutti molto diversi. Alice Rohrwacher ha fatto un lavoro che ho amato tantissimo, per esempio sul rapporto tra gli uomini e le canzoni, e ha evocato tutto questo attraverso poi ha fatto un lavoro di ha visualizzato la musica, un lavoro molto evocativo, molto poetico. Roland Seico pure con la voce di Santa Maria, di Claudio Santa Maria, ha fatto un episodio che mi è piaciuto tantissimo sul il giorno dell'entrata in guerra dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, usando parti di un racconto molto emozionante di Italo Calvino. Sì. E poi invece Giovanni Piperno, che era il primo episodio che ha aperto, diciamo, il film episodio, ha fatto un lavoro sulla fede, quindi raccontando tutto il rapporto tra l'Italia e la fede, la tradizione, il miracolo. C'è questa processione di gente che cerca di fermare l'eruzione vulcanica con una croce, per esempio, immagini molto intense. E Pietro Marcello, che chiudeva il film episodi, un lavoro molto invece molto rigoroso, molto poetico sull'Italia rurale. Senti, passiamo anche al tuo lavoro precedente, che è stato presentato al Torino Film Festival, se ricordo bene, e di cui non siamo riusciti a parlare prima, lo facciamo adesso. Allora, Wolf, un lavoro importante e anche molto delicato. Wolf, sì, un lavoro molto difficile, forse il lavoro più difficile che ho fatto, anche quello stato in qualche modo è partito da una commissione, cioè si voleva realizzare un documentario su Terezin, che è il campo ghetto da cui partivano i treni per Auschwitz, e poi a partire da quella idea David Megnaggi, uno psicanalista, mi ha fatto conoscere Wolf Murmestein, figlio del rabbino capo di quel ghetto. Il rabbino capo Wolf, il rabbino capo Murmestein, è stato accusato e processo e poi assolto comunque per dalle accuse di collaborazionismo, perché insomma dove era stato un ingranaggio nella macchina di sterminio nazista, perché era la persona che è stata accusata di fare le liste che partivano per Auschwitz. Il figlio oggi è vivo, sta alla Dispoli, ed ha il film racconta il rapporto che ha con lo psicanalista Megnaggi, che cerca in qualche modo di pacificarlo dalla memoria del padre. Quindi un lavoro molto delicato è stato. Ecco, come ti è venuto in mente di portare questa storia all'interno di invece di quel lavoro che ti è stato commissionato? Da quale prospettiva l'hai voluta prendere? Ma io insomma ho dovuto studiare molto, poi non essendo ebreo, è un approccio che ho avuto anche prima di tutto storico e poi emotivo. La tematica era universale, erano le colpe, in questo caso le presunte colpe dei padri che ricadono sui figli, perché Wolf, che è il protagonista, è un uomo ossessionato e dilaniato dal dolore, dal ricordo, dal tentativo di riabilitare la memoria del padre. E quindi la tematica era non era più un discorso di vittime e carnefice, era una tematica universale, soprattutto mi ha aiutato a studiare Primo Levi, che parla della zona grigia, cioè di quegli ebrei che a causa dei nazisti, loro malgrado, sono diventati macchine, ingranaggi nella macchina dello sterminio. Quindi è una figura assolutamente più complessa di quella vittima carnefice. È appunto, Primo Levi la chiama la zona grigia, e quello l'ho trovato proprio da un punto di vista umano interessantissimo da esplorare e da raccontare. Ecco, qual è stata la realtà vissuta dal figlio, che è dovuto anche, insomma, è ricorso anche all'aiuto di uno psicanalista, che realtà drammatica e dilaniante ha vissuto? Ma sì, lo psicanalista poi quello è un altro aspetto molto delicato del film. Non sono sedute di psicanalisi, perché sarebbe deontologicamente impossibile filmare, sì. Molto spesso filmare dei soli psicanalisi, sono in qualche modo un rapporto di pacificazione che passa attraverso la psicologia. Il figlio, anche quando stava nel campo di Terezin, nel campo ghetto di Terezin, era un ragazzino, era un bambino, ed era il figlio del capo, del rabbino. Quindi era completamente isolato dagli altri bambini. E lui, che oggi ha quasi 80 anni, però con la mente è rimasto lì. Sì. Senti, come sono state le reazioni al documentario? Alla Wolf o a, no. Sempre di Wolf? Beh, guarda, Wolf. Le reazioni... Wolf, sono state poche proiezioni. La reazione del Festival di Torino è stata buona, abbiamo vinto il premio della giuria, poi l'abbiamo presentato a Roma al Maxi e basta. Ora credo che Luce abbia intenzione di fare una distribuzione. Senti, il figlio del rabbino, come si è visto raffigurato? Allora, il figlio del rabbino è ancora stiamo cercando il modo, insomma, un essere umano molto complesso, anche una questione delicata, stiamo cercando il modo di fargli vedere il film. Ah, quindi ancora non l'ha visionato? No, ancora no. Senti, che percorso avrà? Ci sarà una sorta di distribuzione? Ci sarà una sorta di distribuzione, sì, nel senso che sta nel listino di Cinecittà Luce, con gli altri documentari che dovranno essere, anche insieme a questo 9x1090, e dovranno essere distribuiti nel corso dell'anno. Allora, quindi entrambi i lavori ad opera dell'Istituto Luce vedranno, insomma, un'apertura al pubblico, quindi. Speriamo, sì, sì, bene, nelle loro intenzioni. Claudio, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a te Federico, un abbraccio a Radio Onda Rossa. Ciao ciao. Claudio Giovannesi, co-regista del film collettivo 9x1090 e del documentario Wolf. Francesca Frigo, regista del documentario Saint-Père, Venisse il fulmine. Ciao Francesca, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico e ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, di cosa si parla? Raccontaci un po' questo documentario. Allora, il documentario si chiama Saint-Père, un po' diverso, una parola in lingua bambara, tradotta con Venisse il fulmine. È un'esclamazione pronunciata più volte all'interno del film da uno dei protagonisti. E si parla di un centro di accoglienza, è la storia di 16 ragazzi ospitati all'interno di un centro di accoglienza della provincia di Cuneo. Scusami, ho un po' di tosse. Non ti preoccupare. E un centro di accoglienza nato all'interno dell'emergenza Nord Africa nel 2011. Scusate, perdonatemi, sono un po' con la tosse. Sì, dopo una finta estate, insomma. sì, sono un po' reduce da tosse. Mi riaggancio, scusate. Si tratta allora della storia di questi 16 ragazzi che per sostanzialmente più di un anno e mezzo abitano in questo centro di accoglienza in attesa di documenti, in attesa di risposte, in attesa di capire cosa ne sarà della loro vita. Sostanzialmente sono stati inseriti in questo calderone dell'emergenza Nord Africa, un progetto chiaramente fallimentare, se posso dire, un progetto di accoglienza assurdo, pieno di contraddizioni, e che li ha visti protagonisti involontari di un'attesa estenuante, di una risoluzione paradossale, che è stata poi la risoluzione di dare a ciascuno di loro 500 euro, un titolo di viaggio per lasciare i centri di accoglienza. Sono stati chiusi a marzo del 2013 e sostanzialmente con la speranza di far sì che lasciassero il nostro paese, l'Italia, e andassero a cercare fortuna altrove. Il problema è che i documenti, il titolo di viaggio che gli è stato dato non permetteva a nessuno di loro di lavorare legalmente all'estero, quindi sostanzialmente dopo dei peregrinaggi in giro per l'Europa tutti i ragazzi che io ho seguito, quasi tutti e molti in generale, sono tornati indietro perché non potevano avere nessun tipo di futuro legale fuori dall'Italia. Quindi oltre, diciamo, al danno, la beffa sostanzialmente di questa accoglienza emergenza Nord Africa. È un film che non procede come un racconto di inchiesta, non è un'inchiesta, anche se ovviamente denuncia in qualche modo questo insomma, quello che è successo. Ci sono due cartelli, c'è un cartello finale abbastanza esplicito su questo, e procede invece come racconto di storie per quadri, e sono i dialoghi di questi ragazzi nella loro lingua, la lingua bambara. Non ho detto che si trattava di persone che provenivano dal originario del Mali, della Costa d'Avorio, e arrivate invece in Italia dalla Libia, perché erano per lo più lavoratori subsahariani che vivevano in Libia da diversi anni, e quindi il racconto procede attraverso i loro dialoghi, che scandiscono un anno di vita nel centro. Sono conversazioni di ragazzi che si confrontano su le problematiche della vita nel centro, ma anche su esigenze di vita quotidiana, su storie della Libia, su storie dei loro paesi di origine, su racconti amorosi legati a fanciulle che cercano disperatamente di incontrare, e sostanzialmente è un modo forse per entrare in contatto con questa alterità, forse in un rapporto un po' diverso dal solito, perché siamo in contatto diretto senza filtri, e anche il discorso di entrare, immergersi nella loro lingua è un modo per stabilire un rapporto, un contatto forse per molti nuovo, insomma. Sì. Senti Francesca, come è rivenuta a conoscenza di questa storia e com'è nata poi l'idea di tradurla in film? Io ho una piccola casa di produzione che si chiama Baby Doc Film, che è nata nel 2007 ad opera di Enrico Giovannone e Andrea Parena. Io sono arrivata da Roma un po' di tempo dopo, e è venuto a trovarci un nostro amico un giorno in ufficio e ci ha raccontato la sua esperienza di lavoro in uno di questi centri che avevano aperto da poco, tra parentesi, cosa che non ho detto, questi centri sono nati nel 2011, per la prima volta il piano emergenziale ha creato piccoli centri diffusi nel territorio su tutto il territorio nazionale. Quindi a differenza del passato, dove soprattutto c'erano grandissimi centri dislocati in pochi luoghi, c'è stata un'accoglienza diffusa su tutto il territorio. Quindi ogni regione si è dovuta prendere in carico un tot di migranti, di profughi. E questo nostro amico è venuto a parlarci della sua esperienza e ci ha messo un po' la pulce all'orecchio, nel senso che ci ha raccontato che stava accadendo qualcosa di strano, nel senso che c'era una disorganizzazione rispetto a questo piano di accoglienza che a lui sembrava lampante, e le prospettive, era iniziato da poco e le prospettive non sembravano chiare a nessuno. Ci ha incuriosito, noi cerchiamo come casa di produzione di portare avanti a fatica anche dei progetti nostri, anche quando non troviamo soldi per produrli, questo è stato uno di quelli, quindi abbiamo deciso di provare a entrare dentro la storia, abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo incontrato siamo andati a trovare ragazzi insomma in diversi centri di accoglienza, abbiamo trovato questo piccolo, dicevo, a Caramagna Piemonte, che è in provincia di Cuneo, e siamo riusciti a entrare in contatto con le persone che vi abitavano, e ci sembrava importante provare a dare il nostro contributo, nel senso che c'erano queste esistenze proprio sospese in un limbo, e abbiamo provato a accompagnarli per un pezzo di strada nel nostro modo, con delle scelte di linguaggio e di stile che poi sono quelle del film, e quindi più che intervistarli a proporre appunto un'inchiesta su questa operazione, e abbiamo deciso di passare del tempo con loro, e quello che è venuto fuori poi dopo tanta frequentazione è stato raccogliere queste testimonianze, questi dialoghi. Erano flussi di dialoghi ai quali noi partecipavamo, che organizzavamo insieme, che duravano a volte anche un paio di ore, e che abbiamo tradotto poi dopo in un secondo momento sostanzialmente. Francesca, che destino avrà questo documentario? Ci sarà una distribuzione? C'è modo di avere informazioni online anche per un calendario di proiezioni? Allora, questo documentario è stato presentato in concorso al 31esimo Torino Film Festival a novembre scorso, Italiana Doc, è stato accolto molto bene, ha avuto un po' di proiezioni sul territorio, è stato a Milano al Set del Cinema Africano, e ci sarà una proiezione a fine settembre di nuovo qui a Torino. Calendario al momento no, ma c'è il nostro sito di riferimento, che è babydocfilm.it, o la nostra pagina Facebook, dove sicuramente aggiorniamo sempre quando ci sono delle proiezioni, o chiunque ci può scrivere per avere delle informazioni. Credo che organizzerò una proiezione a Roma nei prossimi mesi, e magari ve lo farò sapere se vi può interessare. E dopodiché, come distribuzione, noi ci siamo autoprodotti delle copie DVD, se qualcuno fosse interessato può anche scriverci e gliela mandiamo senza nessun problema, insomma. Va bene, con molto piacere. Okay. Ok, allora aspettiamo tue notizie, un abbraccio e a presto. Ti ringrazio a tutti voi per l'ascolto e buon proseguimento. Ciao Federico. Ciao Francesca. Francesca Frigo, regista del documentario Sanpre, Venisse il fulmine. Bene, in collegamento adesso con Valerio, uno degli occupanti del Cinema America occupato di Trastevere, e abbiamo durante il giornale radio letto il comunicato che hanno tirato fuori oggi, e prima con Ivano De Matteo, che lì ha presentato alcuni suoi lavori, abbiamo parlato anche di questo sgombero, e adesso ne parliamo con te. E allora, intanto raccontiamo come è nata quell'esperienza e cosa ha prodotto in questi due anni. Ciao a tutti. Allora, sì, l'esperienza è nata due anni fa da un collettivo di studenti e giovani di zona, che poi diciamo, che ha seguito la situazione degli spazi abbandonati del primo municipio di Roma per circa un anno, e poi ha individuato proprio il Cinema America come punto simbolico da occupare, occupazione simbolica che poi insperatamente è diventata un'occupazione permanente, ha acquisito nel collettivo moltissimi elementi nuovi, quindi si è creato un nuovo collettivo gestionale e abbiamo iniziato appunto subito con la rimessa in moto della sala, la storica sala trasteverina, e coniugata con moltissime attività sociali, dalla sala studio a presentazioni di libri, a semplice spazio da vivere di giorno fuori dalle logiche del profitto. Corsi di teatro anche. Sì, corsi di teatro, ora fatico a dirti le cose perché mi si accavallano mi si accavallano tante cose, le partite della Roma, il dare semplicemente lo spazio a iniziative che nascevano proprio qui nel rione di Trastevere, quindi abbiamo permesso di fare anche iniziative di corsi eccetera a residenti che vivono qui e che non erano in grado di magari affittarsi uno spazio proprio, ecco, uno spazio a disposizione del quartiere e anche delle idee, ecco, molto permeabile. Ecco, quello che ieri sono stato alla conferenza stampa in piazza San Cosimato, ieri pomeriggio, c'erano circa 300 persone, insomma è stata molto partecipata. Quello insomma che mi ha colpito è stata la presenza della gente del quartiere, insomma è stato vissuto trasversalmente un po' tutte le età, erano presenti e sono stati presenti in questi due anni di attività e ieri in piazza. Sì, certo, questa la consideriamo una sorta di conquista che si è sviluppata soprattutto nel secondo anno di occupazione, perché all'inizio ovviamente c'erano dei residenti che erano più aperti all'idea di avere un'occupazione dietro casa ed altri invece molto più diffidenti, che avevano semplicemente paura ad entrare per conseguenze legali. Possiamo dire che questo muro lo abbiamo sfondato, nel senso che residenti che inizialmente proprio ufficialmente no, erano in qualche modo diffidenti o comunque persone che non si sarebbero mai avvicinate, e adesso ci seguono da molto vicino e si sono dette pronte ad attivarsi, così come tutti quanti ieri in piazza erano ben convinti che non bastassero più delle assicurazioni da parte delle istituzioni su il futuro di questa struttura, ma che appunto fosse necessario un movimento che partisse dalle radici proprio territoriali di questa esperienza per poter appunto dare un futuro a questo cinema e farlo restare cinema a disposizione della zona. Ieri in piazza, oltre alla folta presenza del quartiere, anche il mondo del cinema, c'era Elio Germano, c'era Daniele Vicari, Francesco Bruni, Virzì, e da una parte, e dall'altra anche altre strutture conducono una lotta rispetto alla cultura, dal Cinema Palazzo all'Angelo Mai, all'ex Lavanderia, alla Strada, al Valle, insomma diverse realtà sono ieri si sono succedute al microfono, insomma come l'avete vissuta questa vicinanza? Beh, ovviamente ci ha fatto molto piacere vedere non solo la quantità di persone ma anche la quantità di realtà che ieri in piazza erano rappresentate, e anche appunto la vicinanza del mondo del cinema. Noi non so se ne avete già parlato prima, comunque in piazza abbiamo lanciato una proposta appunto che è quella di non permettere che il Cinema America o resti chiuso per ancora altri anni o peggio venga trasformato in residenza di lusso. La proposta che abbiamo lanciato è quella di un'acquisizione partecipata che proprio nasca da questa spinta partecipativa enorme che c'è stata nel rione, nella città, e anche questa sfilza di appoggio che abbiamo ricevuto da parte di personaggi del mondo del cinema. E questa proposta la stiamo strutturando in questi giorni, perché dopo le grandi rassicurazioni che c'erano state anche sulla stampa da parte delle istituzioni, nessuno si aspettava uno sgombero proprio ieri, perciò ci ha preso un po' alla sprovvista, però questa era un'idea che ci frullava nella testa già da qualche settimana, questa appunto di uscire dall'occupazione e di restituire definitivamente il cinema a Rione grazie a un progetto di acquisizione partecipata che veda come protagonisti i giovani che lo hanno frequentato, i residenti del Rione e i personaggi del mondo del cinema che possono aiutare sia economicamente sia mediaticamente molto, e sarà nostro impegno proprio in questi giorni studiare la forma giuridica che permetta una tale, diciamo, un tale dispiego di forze e un'idea, diciamo, la realizzazione di un'idea che ci sembra molto difficile, però è anche un grande sogno per tutti noi. Tornando all'assemblea di ieri, in molti interventi c'è stata questa sottolineatura rispetto alle differenze tra legalità e legittimità. Sì, certo, è un discorso che si può basare sia su questioni di principio sia su questioni invece più concrete. Ovviamente insieme al grande numero di dimostrazioni di appoggio che abbiamo ricevuto, c'è sempre chi critica, e normalmente lo fa sempre fondandosi sul fatto che dal punto di vista del diritto il cinema è di un proprietario e questo proprietario ci può fare quello che vuole. Ecco, noi pensiamo che comunque, come del resto abbiamo convinto poi di questa cosa, abbiamo convinto tanta gente che soprattutto qui a Trastevere, che poi magari all'inizio la pensava diversamente, ovvero del fatto che non è semplicemente il diritto di proprietà privata quello che va considerato, perché se uno stabile così importante nel storicamente, socialmente, culturalmente nella storia della zona e della città viene sottratto per tutti questi anni, e poi miracolosamente l'interesse della proprietà si risveglia proprio quando gli occupanti creano qualcosa di importante, creano qualcosa che inizia a dar fastidio, che iniziano a mettere le proprie radici, e quindi quando la proprietà fiuta che questo stabile rischia addirittura di essere vincolato e di perdere quindi quel valore di edificabilità che prima aveva, si risveglia appunto l'interesse, e quindi di nuovo tirano in ballo le questioni della legittima proprietà privata del cinema. Quindi se leggete oggi le dichiarazioni che hanno fatto i proprietari su alcuni principali quotidiani, l'argomento è principalmente questo, il fatto il cinema è nostro e ci facciamo quello che ci pare. Ovviamente bisogna sempre considerare che un edificio sta in una zona, che questo edificio non è una palazzina, ma è un cinema che peraltro ha rivestito una certa importanza nel mondo appunto cinematografico degli anni 50 di Roma, e soprattutto bisogna considerare quello che sono stati questi due anni, ovvero un continuo flusso di tanti tipi di persone, di tanti tipi di eventi, di tanti tipi di iniziative che hanno creato qualcosa che non bastano appunto 5 camionette a sgomberare la Trastevere. Noi adesso siamo qui ancora davanti al Cine America, siamo al bar, ma ci riuniamo qui, ci stiamo riorganizzando, abbiamo delle sorprese per i prossimi giorni. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti se ci sono già appuntamenti pubblici che state lanciando. Guarda, stavamo per lanciare una cosa per venerdì, ma poi abbiamo guardato il meteo e siamo costretti a cambiare data. Comunque lanceremo un appuntamento in Piazza San Cosimato, un grande appuntamento sociale, quindi musica, cena popolare, per una delle sere della prossima settimana, ancora non sappiamo quando, e presto possiamo anche anticiparvi che saremo di nuovo disponibili con una sede fissa per portare avanti questa campagna. Benissimo. Allora, in chiusura, dacci dei riferimenti internet per seguirvi. Certo, molto volentieri, perché oggi, ironia della sorte, proprio oggi è andato online il nuovo sito del Cinema America Occupato con un restyling, quindi lo trovate su americaoccupato.org, se no comunque se aggiorneremo costantemente tutti su Facebook e Twitter, siamo facilmente rintracciabili. Bene, un abbraccio, a presto allora. Grazie a voi per lo spazio, a presto. Ciao, ciao, ciao. Questo per quanto riguarda il cinema America occupato, ieri sgomberato, ieri pomeriggio c'è stata un'assemblea pubblica in piazza San Cosimato e adesso sentiamo le prossime novità per quanto riguarda degli appuntamenti pubblici. Eccoci con Enrica Capra, regista del documentario The Toxic Burden. Enrica, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. In realtà io non sono però la regista, sono la produttrice. Produttrice, scusami. Sì, sono una produttrice creativa, ma non sono la regista. La regista è Patrizia Marani. Ok, mi piace il produttrice creativa, mi piace. Sì, cerchiamo di farlo, per quel che è possibile, di fare un lavoro che non sia puramente di numeri, ma che sia anche di contenuti e di bellezza, se possibile. Ecco, a proposito di contenuti, di cosa parla il documentario? Ma il documentario parla di una cosa che tocca un po' tutti, nel senso che una breve statistica fatta intorno a sé in generale dà questo risultato, cioè una persona su tre soffre di allergie e se si parla di bambini una persona su due soffre di allergie, il che è gravissimo. E noi siamo partiti da questo punto. Patrizia Marani, che è allergica a lei stessa, è venuta a proporci questo progetto che lavora intorno al tentativo di scoprire perché le allergie hanno avuto un così grande boom negli ultimi decenni, perché in realtà l'allergia praticamente non esisteva all'inizio del secolo, c'erano pochissimi casi di anafilassi, mentre invece questo boom è un boom tutto contemporaneo che ovviamente avrà delle ragioni che sono legate al mondo contemporaneo. Allora noi siamo partiti in questa ricerca per cercare di scoprire quali sono le cause vere dell'allergia. Devo dire che l'allergia è trattata con una certa ingiustizia in generale, perché viene sempre trattata come una malattia assurda che non ha spiegazioni, il sistema immunitario si sbaglia, sbaglierebbe obiettivo e troverebbe che delle cose innocue in realtà sono pericolosissime, no? Al punto di morire per delle cose che sono totalmente innocue, non sono né virus né batteri, ma noccioline, no? Uh-huh. E si può morire per questo. Allora, tutti trattano l'allergia sempre come una cosa inspiegabile, no? Noi in qualche modo abbiamo riabilitato l'allergia con questo lavoro. Patrizia è andata, che è una bravissima giornalista e regista, ci ha proposto di andare a incontrare i migliori specialisti del mondo su questi temi, quindi siamo stati negli Stati Uniti parecchio a lavorare con veramente Stanford, Yale, le migliori università americane, per scoprire in realtà che l'allergia è una forma di difesa dell'organismo. Non è tutt'altro che assurda, anzi al contrario, è un modo in cui l'organismo cerca di proteggersi da un accumulo di sostanze chimiche invisibili che si in qualche modo appesantiscono l'organismo e lo rendono esposto alle peggiori malattie, quindi a quelle veramente mortali, no? Nei bambini questo avviene addirittura in età prenatale, quindi in qualche modo addirittura il feto accumula una serie di sostanze che poi fanno sì che il bambino nasca già allergico, il che vuol dire che appunto non è un problema genetico, come spesso si ripete, o lo è molto poco, ma è in realtà il fatto che i bambini nella pancia della mamma succhiano queste sostanze che sono diffuse ovunque nel nostro mondo contemporaneo. Se vogliamo, appunto, il problema è ma chi emette queste sostanze? Ma come mai sono lì? Ma perché nessuno ha controllato che siano sostanze innocue? E lì viene il problema fondamentale, cioè noi siamo sempre molto fiduciosi nel fatto che i prodotti industriali siano in qualche modo testati, sicuri, innocui per la salute, anzi magari addirittura benefici, e invece poi si scopre che ci sono migliaia e migliaia di componenti chimici che non sono dovuti essere testati prima di essere immessi nel mercato, addirittura in prodotti alimentari. Questa è una scoperta sconvolgente, no? In realtà sono pochi anni che la normativa europea ha fissato delle regole per cui i produttori sono costretti a testare le sostanze, ma è veramente, questa legislazione è recentissima, è del 2007. Sì. Prima non c'era obbligo, quindi immaginati, chiunque poteva mettere sul mercato dei prodotti anche alimentari senza il dovere di appurare che fossero innocui per la salute dei consumatori. Allora, sia prodotti quindi che ingeriamo in qualche modo, volevo chiederti, ciò dipende anche da un sicuramente una parte è dovuta anche all'inquinamento atmosferico. Sicuramente, certo, l'inquinamento atmosferico è uno dei principali, delle prime cause, ma è anche una di quelle più difficili da rimuovere, mentre ci sono altri settori come appunto quello dell'alimentazione, ma anche quello dei prodotti, ad esempio cosmetici. Sì, sì. Degli shampoo, dei deodoranti, di un sacco di altri prodotti di cui bisogna guardare con attenzione l'etichetta, perché moltissimi dei prodotti in commercio contengono notori allergeni. Per esempio, faccio solo un caso: tantissimi dentifrici in commercio contengono il triclosan, che è una sostanza che la maggior parte degli studiosi è d'accordo a considerare una delle cause principali dell'allergia alimentare, ad esempio. Quindi l'invito che puoi fare questo documentario è dire: puoi agire, perché il consumatore comunque ha il potere di scegliere i prodotti che vuole. Sull'inquinamento atmosferico non possiamo far molto, ma sulle scelte quotidiane in termini di cibo, di packaging, di prodotti per l'igiene, di prodotti per ad esempio per le pulizie in casa, i prodotti cosmetici, eccetera, tutti questi sono possibili fonti, certo, di allergeni, e su tutti questi ci si può difendere scegliendo dei prodotti buoni. Delle varie cose di cui ci circondiamo, insomma, alla fin fine. In cui viviamo immersi, perché Senti, è una realtà diffusa un po' ovunque, non solo in Italia, quindi. Sì, sì, questo credo che sia un tema che tocca in modo veramente, anzi in realtà tocca moltissimi paesi emergenti che non hanno ancora regole così, perché noi in fondo siamo fortunati, tutto sommato, tra virgolette, nel senso che viviamo in paesi dove si tenta di intervenire a livello legislativo in qualche modo per tamponare delle situazioni che magari sono già in corso, ma insomma, si cerca in qualche modo di migliorare le cose. Tanti paesi emergenti invece hanno questo problema moltiplicato, e sono notori, no, i casi ad esempio degli inchiostri o dei giocattoli per i bambini che contengono delle sostanze. Quindi questo è un problema che sta diventando esplosivo a livello mondiale. Anche perché, Enrica, immagino che alcune sostanze tossiche siano causa anche di danni genetici. Assolutamente, no, infatti noi abbiamo affrontato questo problema sotto l'angolo dell'allergia, ma certo a ogni angolo incontravamo cose che toccavano problemi di malformazioni, problemi di malattie mortali, problemi. Addirittura una cosa che trovo molto singolare è che parecchie di queste sostanze sono anche depressivi, quindi cioè, la cosa poi strana è che hanno anche un effetto così sulla psicologico o psichiatrico, no? Cioè sono sostanze che inducono depressione, per cui diciamo si vive anche più allegri se si mangia e si consumano prodotti meno nocivi. Questa è anche una cosa, tutto sommato, un effetto collaterale che magari è meno conosciuto, ma che ha un'importanza. Certo. Senti, Enrica, quel vostro documentario ci sarà modo di vederlo distribuito? Ci sono delle informazioni online? Guarda, online si trova, su Facebook ci sono diversi, il titolo diciamo The Toxic Burden è uno, poi abbiamo tradotto, quindi comunque The Toxic Burden è una pagina su Facebook. Siamo in trattative tra l'altro con Life, che è un editore coraggioso che di questi temi si occupa diciamo con un certo impegno, quindi speriamo appunto che di poter annunciare tra poco il fatto che verrà visto, cioè sarà visibile in chiaro sul canale 50 della F. Sta circolando in festival, ce lo chiedono in tanti festival e in tante televisioni internazionali, dal Quebec alla Russia, quindi diciamo in qualche modo stay tuned, e credo che nei prossimi mesi sarà possibile comunque vederlo. Magari il titolo italiano potrebbe essere La minaccia tossica, perché appunto The Toxic Burden forse è meno chiaro, sì. La minaccia tossica, l'allergia, la minaccia tossica dovrebbe essere il titolo italiano definitivo. Bene, allora aspettiamo notizie. Un abbraccio e a presto. Grazie Federico, un abbraccio anche ciao a te. Enrica, ciao. Ciao, ciao. Enrica Capra, produttrice del documentario The Toxic Burden. Antonio Spanocco, regista del documentario Animal Park. Antonio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, ho avuto modo di vedere il documentario quest'estate al Clorofilla Film Festival. Raccontiamolo a chi ci ascolta, Antonio. Sì, Animal Park è un documentario che è nato quasi per caso. nato durante la lavorazione di The Silent Chaos, l'altro documentario sempre girato in Congo. Ci trovavamo in questo villaggio dal nome Chiavignong sul lago Edoardo per fare delle riprese, e i pescatori ci hanno chiesto di incontrarci, pescatori del villaggio. Li abbiamo incontrati e poi anche le donne stranamente ci hanno chiesto di incontrarle. E alla domanda, le vedove, scusami, le abbiamo incontrate, erano circa più di 50, tra i 50 e i 70 vedove, e ho fatto la domanda: ma i vostri mariti sono morti nel lago? Quanti sono morti nel lago? Pochissime mani, ho visto pochissime mani alzate, mentre poi ho chiesto loro: dove sono morti i vostri mariti? E loro hanno risposto: nel parco. Chiavignong è una delle poche ormai enclave che sono rimaste all'interno del territorio del Virunga National Park, che tra l'altro è il parco africano più antico, è stato istituito dai belgi nel 1925. Allora da lì abbiamo cercato di capire cosa stesse accadendo e abbiamo basato il nostro documentario che prettamente è un cortometraggio, un documentario di 9 minuti, è un documentario testimonianza su quello che ci hanno raccontato. E purtroppo a quei tempi continuano le violenze attualmente, le persone vanno a coltivare quelle che erano le loro terre che sono state requisite dal parco che ha allargato i confini, e vanno incontro alla morte, perché guardia parco in Congo sparano, insomma. Sì, vedendo il documentario, insomma, la cosa che risulta subito lampante è una sorta di cortocircuito paradossale, per cui in difesa dell'ambiente ci sono queste milizie armate che uccidono una popolazione che lì è sempre stata residente e che sicuramente non danneggia l'ambiente, cioè coltiva dei terreni e insomma vive di pesca. Esatto, non abbiamo visto in una settimana che siamo stati a Chiavignong una macchina che non fosse la nostra. Chiavignong esiste da prima del parco, da prima del 1925, le famiglie avevano quei terreni. Da quando è nato il parco soprattutto negli ultimi anni sta allargando i confini, mangiando la terra a queste persone. È proprio il nome di un... la versione ufficiale, abbiamo intervistato chiaramente il responsabile del parco, del settore nord del parco del Virunga, e la versione ufficiale è sensibilizzare la popolazione locale all'importanza dell'ambiente, della tutela dell'ambiente. È deprecabile l'utilizzo, ecco, come raggiungono il loro obiettivo, insomma, ammazzando e bruciando i villaggi. Moramba era un'altra enclave all'interno del parco, è stata bruciata. E sì, abitano da sempre lì, hanno un impatto, chi avrà modo di vedere il documentario se ne può rendere conto dalle immagini, le immagini parlano da sole. Ecco, la figura di questi guardiani del parco, da chi è composta questa milizia? Allora, esatto, mi fa piacere che tu usi questo termine, perché non siamo abituati alle nostre guardie forestali, ecco. Dipendono dal governo congolese, dal governo in Kinshasa, Istituto Nazionale Congolese di Conservazione si chiama, che è ICCN, l'acronimo, sono un vero e proprio esercito. Solo nel settore nord c'erano più di 130 soldati. Non è facile la loro vita, perché Virunga, tutto il territorio risiede sul confine tra i tre stati, il Congo, Ruanda e l'Uganda. Al cui interno, all'interno del parco, transitano tutti i minerali preziosi che sono presenti nel Nord Kivu, che è la regione nel Congo, transitano, quindi tutto il contrabbando di pietre preziose verso Uganda e Ruanda, quindi comunque con risorse limitate i guardie parco si trovano a dover fronteggiare i ribelli ugandesi, i ribelli ruandesi, i Mai Mai che sono i ribelli locali, quindi la loro vita e il loro compito non è facile. C'è comunque un clima di guerra, chiaramente. Esatto, c'è una guerra civile da più di 20 anni, da quasi 20 anni, che dura dal 96, e non è facile il loro compito. Questo non giustificano quello che hanno commesso, stanno commettendo, le violenze che stanno commettendo. Perché dal 2011 nel Virunga hanno scoperto un grosso giacimento petrolifero e anche del gas nel lago Kivu e Edoardo, e da lì sono piombati di nuovo interessi delle multinazionali. E quindi la versione ufficiale, come ti raccontavo prima, è sensibilizzare la popolazione locale. Io credo che sotto invece ci siano interessi molto più grossi. Quindi l'obiettivo è rimuovere quelle migliaia di persone che da sempre abitano lì per poter fare quello che devono fare, sfruttare le risorse. Eliminare i testimoni, insomma. Esatto. E questo poi alla fine, insomma. Esatto. Senti Antonio, per Animal Park, per vederlo, averne notizie in rete, ci dai delle indicazioni? Sì, sul nostro sito, nella nostra piccola casa di produzione, che è www.officenumber4.com, tutto in lettere, ufficio numero 4, tutto in lettere. E niente, per vederlo nei festival sta girando moltissimo, è già quasi 40 partecipazioni ed è uscito a gennaio 2014, quindi siamo molto contenti. E niente, per adesso festival, tramite il sito si può contattare, c'è la nostra email, possiamo dare ulteriori informazioni. Benissimo, allora aspettiamo nuove cose dal vostro collettivo. Ok, grazie mille Federico e grazie per l'invito. A presto, ciao Antonio. Ciao, a presto, ciao, ciao. Antonio Spanocco, regista del documentario Animal Park. Di nuovo con noi il regista Thomas Torelli. Thomas, ci sei? Sì, eccomi. Oh, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Oh, quest'estate grazie, abbiamo avuto modo di conoscerci di persona, perché ci siamo sempre parlati per telefono. Infatti, è stato fantastico conoscerci di persona. Allora, quest'estate al Clorofilla Film Festival tu hai presentato un tuo lavoro che a breve sarà presentato anche qui a Roma. È stato già presentato a Roma al RIF, sì. Roma Indipendente Film Festival, e venerdì 5 saremo alle terrazze del Presidente al Palazzo dei Congressi. Al Palazzo dei Congressi, sì, alle terrazze del Palazzo dei Congressi. Allora, raccontiamo questo lavoro. Sì, è stato un lavoro complesso perché è durato 3 anni e mezzo ed è un progetto, un documentario, un film che ha l'ambizione di parlare di tante cose. Di scienza, di ecologia, di filosofia, e poi tutto questo si trasforma in vita quotidiana, perché poi il messaggio che si trae dal film poi alla fine è semplice e diretto. È stato complesso mettere in piedi tutto il progetto, perché abbiamo già 3 continenti, come puoi immaginare, con i budget limitati che ci sono in Italia è stata un'avventura non da poco, ma adesso stanno arrivando tantissime soddisfazioni, perché abbiamo quasi ogni weekend occupato di proiezioni da qui fino a dicembre, sta andando benissimo anche nei festival, abbiamo appena avuto un riconoscimento dalla Biennale di Festival Scientifico in Spagna, che lo presenterà in tutte le università della Latin America, quindi insomma sta andando molto bene. Senti, per chi ci ascolta però non abbiamo ancora dato il titolo. Ah, hai ragione. scusami, mi hai colto di sorpresa, stavo scrivendo una mail, ero molto concentrato, come se mi avessi appena svegliato. sì, titola Un altro mondo, parla in qualche modo della presa di coscienza che noi, volenti e nolenti, in questa fase storica stiamo avendo nei confronti terra, nei confronti dell'interconnessione che c'è tra uomo e universo, interconnessione che era conosciuta da molti popoli ancestrali, tipo i nativi americani per esempio, che chiamavano il loro Dio il grande spirito, che però non era nient'altro che riconoscere la forza che c'era nelle cose come qualcosa di vivo, o come Maya, che si salutavano con un saluto che si chiama, si dice in Lakesh, che significa io sono un altro te stesso. Allora, tutte queste tradizioni oggi vengono riscoperte dalla fisica quantistica, che in qualche modo riconosce attraverso alcuni esperimenti che in realtà tra tutte le cose c'è un'infinita interconnessione, mm-hmm. e quindi la vita è molto più misteriosa e magica di quello che ci viene raccontato, sì. e quindi anche in realtà il nostro potenziale. Nel documentario la cosa che fa più impressione è l'importanza delle vibrazioni che possono essere attraverso la musica e attraverso l'acqua, che è una componente fondamentale della vita, insomma è presente in gran parte delle creature viventi. Dici un po' di questa cosa, Thomas. Sì, il film ha una lunga introduzione che cerca poi di arrivare sempre più nello specifico di fisica e scienza, però quando si parla di filosofia, quando si parla di fisica, di scienza, di cose di questo tipo, si rischia di essere astratti. Quindi noi abbiamo cercato di creare prima un'introduzione importante, che fa capire che tutti i popoli prima vivevano con queste concezioni, e poi abbiamo portato degli esempi. Quando parliamo di vibrazione, in realtà la vibrazione non è nient'altro che il linguaggio dell'universo, cioè ogni cosa nell'universo, questo lo dice la fisica quantistica, in qualche modo vibra, e la vibrazione è la frequenza, è il linguaggio di quell'oggetto, di quella parola, di quel suono, di qualsiasi cosa. L'acqua è una delle sostanze che più o comunque che molto, ma che si sta rendendo famosa, oltre che per essere indispensabile, perché ha in sé la capacità di mantenere memoria di ciò di ciò che percepisce, di ciò che ha intorno, di ciò che riceve, no? La medicina omeopatica ne è un esempio, sì. di questo, che basta una goccia di principio attivo in un bicchiere d'acqua e in qualche modo tu hai gli effetti di quella sostanza. Ora, questo è riproducibile in tutte le cose, cioè questo biochimico giapponese che si chiama Masaru Emoto, ha fatto dei test, degli esperimenti, che ha dimostrato che mandando all'acqua diversi tipi di frequenze, o comunque se vogliamo di musica, per fare un esempio, l'acqua memorizza se la frequenza, congelando l'acqua si può vedere poi nel momento in cui viene scongelata con un microscopio il cristallo, e il cristallo varia a seconda della frequenza che ha ricevuto. Sì. Questa cosa qua in realtà poi è riproducibile anche in tante altre cose, cioè non soltanto con la musica, ma con delle immagini, con dei suoni, con delle parole e addirittura col pensiero. Anche Emilio del Giudice, durante il film, Emilio del Giudice, professore di fisica nucleare all'Università di Milano, una delle persone che è stato convocato per sperimentare la fusione a freddo, insomma una persona che purtroppo ci ha da poco lasciato, ma uno dei fisici lineari italiani, mentre lo intervistava ha raccontato in maniera molto semplice l'acqua, cioè o meglio il pensiero, è un insieme di onde elettromagnetiche opportunamente correlate tra loro. Lo trasferisco all'acqua, verosimilmente l'acqua, almeno in parte, ne subirà delle conseguenze. Certo. Quindi insomma poi arriviamo a dimostrare che in fondo anche il pensiero emana delle onde elettromagnetiche, e quindi anche il pensiero può influenzare la nostra realtà. Quindi questo poi lo può rendere un film new age, se vogliamo, ma noi arriviamo a queste conclusioni attraverso un percorso di spiegazioni che dura 40-50 minuti e che parte dai popoli nativi, quindi è molto diverso dalle cose che girano fino ad oggi, tant'è che è un film che è stato riconosciuto sia, come ci siamo conosciuti di persona noi, al Festival dell'Ecambiente e sia come festival scientifico, quindi è riconosciuto sotto tutti gli aspetti, sia quello del rispetto dell'ambiente che scientifico, insomma. Sì. Per cui... E poi va detto, insomma, come pubblico la forza delle immagini non è uguali, nel senso vedere questi ghiacci di acqua che è stata esposta della musica hanno delle armonie di una bellezza che non ha uguali, è una cosa veramente mi ha colpito. Sì, è sorprendente. È sorprendente, veramente. La prima volta che l'ho visto mi sono commosso. e sapere che poi in fondo questa è scienza, no? È la scienza sì, di oggi ormai sì. Riconosce che l'acqua ha questa capacità e che la frequenza, la vibrazione emessa da qualsiasi cosa in qualche modo modifica la realtà. Quindi modifica l'acqua, e l'acqua, il cristallo è nient'altro che la prova visibile di una cosa che uno cerca di raccontare, e quindi uno in qualche modo viene colpito perché vede la reazione, ma in realtà la reazione c'è in tutte le cose, in ogni istante, in ogni pensiero che facciamo, in ogni azione che facciamo, in qualche modo crea una reazione. Sì, sì, sì, sì. Che poi è la realtà che poi ci creiamo istante dopo istante. Un altro esempio lampante è quella dei diapason a frequenze diverse. Se hanno frequenze uguali, quando si suona uno l'altro diapason nelle vicinanze vibrerà, quando invece sono di due frequenze diverse questo non succede. È una cosa anche questa di una semplicità eclatante, che però insomma se uno poi la sperimenta dice oi boh. certo, ma infatti penso che non dovrei dirmelo da solo, però secondo me una delle cose che ha funzionato del film è che si cerca di parlare di cose molto complesse portando esempi facili e quindi poi comprensibili a tutti. Sì. Quello di Amazon è uno di questi, perché sì, sì. Alla fine uno dimostra che se le frequenze sono le stesse, le vibrazioni passano molto semplicemente, no? E quindi sì. E quindi è così che si crea la risonanza. Sì. No, a proposito dei nativi, volevo dire un'altra cosa che probabilmente ai spettatori, a voi di Radio Onda Rossa, magari può essere apprezzata. Abbiamo deciso, quando abbiamo scritto il film, o più che apprezzato, diciamo compresa meglio, perché insomma so che c'è un pubblico di persone sensibili a certe tematiche, abbiamo deciso di parlare, di prendere come esempio, perché poi quando si parla di popoli che vivono in questa terra si dovrebbero prendere qualsiasi popoli che vivevano prima dell'invasione occidentale, chiamiamola così, andavano sì. Bene tutti, anzi probabilmente molti mi osservano il fatto che in realtà gli indiani gli indiani dell'est, per nostro est, erano molto più spirituali per certi aspetti nativi. I Veda, per scritti 5.000 anni fa, e già dicevano tutto, se vogliamo. Sì, sì, sì, sì, sì. Abbiamo deciso di scrivere e di mettere l'esempio dei popoli nativi, perché sono stati quelli che più di qualsiasi altro popolo ha vissuto in maniera anche violenta la nostra invasione. Cioè, almeno va ricordato, noi nel film lo ricordiamo, che comunque è stato il più grande olocausto della storia, quello dei nativi americani e quello del popolo della Mesoamerica. Sì. Soltanto negli Stati Uniti sono stati uccisi di 70 milioni di nativi in meno di 50 anni. Sì, sì, sì, sì. Perché in qualche modo anche lì era un'esportazione di democrazia. Certo. No? Certo. Sì, perché dicono, noi portiamo la civilizzazione. Dicono, in che senso la civilizzazione? Noi siamo già tanto civili per conto nostro. Eppure certo, nel nome certo. Della civilizzazione abbiamo 70 milioni di persone. Per cui ho deciso di prendere loro come esempio, perché comunque secondo me andavano anche ricordati in questo modo. Sì, sì, sì, sì, sì. Oh, Thomas, a questo punto ti chiedo di darci informazioni internet su questo tuo documentario, che ricordiamo si intitola Un altro mondo, e poi di nuovo ricordare la proiezione. Ok, qualsiasi informazione sul film si può trovare su www.unaltromondo.net. E domani al Palazzo dei Congressi alle 21 vi aspetto numerosi. Benissimo. Thomas, io carissimo. io ti abbraccio, ti ringrazio e ci sentiamo per le prossime cose. Fantastico, non vedo l'ora. Grazie, ok, per l'ospitalità. Un abbraccio grande. Ciao Thomas. Ciao Fabrizio, grazie. Ciao, ciao. Siamo alla conclusione, Visionari torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, anche se in questo nuovo inizio di stagione ci siamo un po' allargati. I riferimenti per quanto riguarda la scaletta la trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia su Facebook, c'è una pagina dedicata a Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Sulla scaletta trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 4 settembre, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda i film sul piccolo schermo e poi il link per ascoltare la puntata precedente, ma anche tutto l'archivio del 2014 e del 2013. Potete sentirci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal computer, dal sito internet della radio. Sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. È tutto, buon proseguimento, a giovedì prossimo.